Nell'arco dell'intera nostra esistenza ci è difficile riuscire a scorgere i segni dell'evoluzione della specie a cui apparteniamo. I nasi più o meno mantengono la forma dei nasi e la fronte è sempre allo stesso posto. In compenso un computer con il suo bel pacchetto di programmi evolve innanzi ai nostri occhi con una velocità cui guardiamo con sospetto e preoccupazione. L'evoluzione del nostro conto in banca non regge il ritmo evolutivo di questa merce e troppo rapidamente siamo costretti a constatare novità computeristiche che con la macchina e i suoi programmi rendono obsoleti noi stessi. In un computer di poco più di un paio di anni fa, ecco, ogni qualvolta scrivevo di quella parte del nostro cervello chiamata sistema limbico, il sistema di correzione automatico mi segnalava errore e mi suggeriva come alternativa corretta di scrivere sistema libico. Nel computer che mi è arrivato il mese scorso, il difetto è stato eliminato. Ogni volta che scrivo limbico, il programma da sé cancella e riscrive libico, autorità. È lo stesso programma che, se allorquando ho concluso un articolo, mi provo a firmare Akame, corregge e scrive accade. Sì, succede. Anzi, accade. La vicenda dovrebbe dirci qualcosa dello stadio al quale sono giunti i due ordini di sistemi evolutivi. Quello dei computer e quello di quegli esseri umani che dei computer si dicono responsabili. Mm-hmm.